Bene, eccoci qui, le 14 di giovedì 6 dicembre del 2012, Radio Onda Rossa, 87.900, la modulazione di frequenza. Questa è Visionare il cinema, come ogni giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari. E poi per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, per gli sms in diretta il numero è 342-357-4357 e siamo in collegamento con il nostro primo ospite, Roberto Silvestri, direttore della 30ª edizione del Sulmona Cinema Film Festival, che si svolgerà al Cinema Teatro Pacifico dal 4 al quindi è in pieno svolgimento dal fino all'8 dicembre, fino a sabato. Roberto, intanto ben ritrovato a Visionari. Buongiorno, buongiorno. Come stai? Bene, bene, sì, in pieno svolgimento, la giuria sta lavorando alla cremente qui al ristorante, vicino a dove sto io. Una giuria guidata da Luigi Rocascio e da Renato De Maria, attori, registi, sì, tutti e due, e poi 10 studenti delle scuole di cinema. Allora, 30ª edizione, un'edizione importante, e tra l'altro leggevo nella presentazione, come al solito, un problema di tagli e quindi di finanziamenti e di i piccoli festival diventano sempre più piccoli, però anche più combattivi. Esatto, raccontaci un po' dell'avventura di quest'anno. Quest'anno abbiamo sostanzialmente tre nuclei forti, un concorso di opere prime e seconde italiane alla fine dell'anno, più o meno senza problemi di avere anteprime mondiali assolute, ma insomma i migliori film italiani o per le prime e seconde che ci sono piaciuti nel corso degli anni qui si ritrovano e si decide qual è il più bel film, diciamo, della nuova generazione, delle nuove tendenze. Mm-hmm. Poi c'è una rassegna che dedichiamo al cinema contro la mafia, tra l'altro anche un po' in omaggio a Luigi Rocascio, che come esordio fece i 100 passi di Giordana dedicato a Peppino Impastato e a quel terribile omicidio. E come terza cosa, Antonietta De Lillo ha presentato una parte qui del progetto di cinema partecipato, no? Questo cinema ha fatto un po', il suo nome è Neorealismo 2.0, insomma neorealismo nell'epoca del web, contando sulle sollecitazioni che vengono dal basso e su film attorno a un nucleo originario, il tema è l'amore, una serie di cineasti che si aggregano e entrano dentro questo film, che poi è coordinato e diretto da Antonietta, ma che si avvale di contributi differenti. Ecco, lei ha presentato il segmento che vorrebbe girare all'Aquila di questo progetto qui. Per quanto riguarda il concorso, le cose che ci interessano e ci hanno sempre interessato sono, appunto, dicevo, i festival combattivi, sono piccoli ma combattivi, soprattutto quei cineasti italiani che sono un po' indocili rispetto alle nostre leggi. Questo governo tecnico non sta facendo molto per il cinema, anche se per fortuna gli operai di Cinecittà sono riusciti a strappare un contratto, e allora preferiamo i cineasti italiani che se ne vanno all'estero, che girano fuori dall'Italia, i cineasti stranieri che in qualche modo vengono in Italia e danno un po' di impulsi culturali più interessanti di un paese che sta culturalmente un po' andando verso la decerebralità. Tra l'altro avevate coniato il termine italieni. Infatti gli italieni, no, sono i nostri preferiti. Infatti abbiamo tra gli italieni che stanno Maged El-Maedi, che è un egiziano che ha vinto recentemente il primo premio al Festival di Torino, presentando una bellissima e stranissima versione delle lotte in Egitto, che tra l'altro continuano proprio in questo momento, dove ci sono scontri terrificanti tra fascisti, fondamentalisti e persone normali. E I Don't Speak Very Good, I Dance Better, il titolo di questo film è molto interessante per far capire come uno dei moventi anche dei ragazzi che stanno davanti ai carri armati da parecchi mesi è anche la situazione sanitaria disastrosa del paese, con un 25% di malati di epatite C, probabili morti perché non ci sono i soldi per fare i trapianti di fegato, e quindi è una situazione veramente terrificante. Un altro italiano, scusa Roberto, era un dato che sotto il regime era tenuto chiaramente all'oscuro, questo non solo, ma intanto mi meraviglio che è tenuto all'oscuro dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lì ci sono state connivenze con Mubarak da parte dell'Occidente gravissime, di cui qualcuno dovrà dare conto. E seconda cosa, la sanità da qualche anno era già in mano totalmente tra dei musulmani, no? Altro che partito di opposizione, cioè sono stati un po' loro che hanno tenuto la situazione fognaria, la situazione alimentare in mano, arrestando tra l'altro gli ispettori alimentari, gli ispettori ecologici, cioè una situazione veramente gravissima, e credo che le responsabilità sono moltissime dell'Occidente, che gli stava benissimo Mubarak e tutta la sua dittatura, e la chiamano i moderati arabi. Sì, anche perché Roberto era fornendo proprio i servizi di base che hanno fatto proseliti i fratelli musulmani. Sì, esatto, ma vorrei proprio sapere come mai, se non a pagamento come faceva la DC nel 1948, sì, no, dando la pasta e i soldi, come mai sono riusciti a vincere, tra l'altro di un pelo delle elezioni, tra l'altro con un sistema elettorale che il Baradei ha contrastato e non ha voluto partecipare a quella farsa, e quindi vincendo tra l'altro del solo 4%, cioè non è vero che siamo in una situazione democratica corretta, no? Quindi è un film molto interessante. Poi Izza Kovi, che è una nostra cineasta sud-tirolese o alto-tesina, che ha presentato un film tedesco, in lingua tedesca, The Shine of Day, molto interessante, sempre così ambientato marginalmente nel mondo che a lei sta così cara, del circo, e del circo povero, del circo represso, del circo emarginato, con regista proprio un tedesco, si chiama Rainer Frimmer, anzi un austriaco che è Rainer Frimmer. E poi abbiamo The Golden Temple, che è un film italiano di Enrico Masi, molto interessante, girato a Londra, sulla gentrificazione di un quartiere che è stato distrutto totalmente, no? Per gli interessi. Questo è stato presentato a Venezia, forse ne avete già parlato. Sì, ne abbiamo avuto ospite proprio l'autore, sì. Sì, è molto interessante. Poi naturalmente altri film, c'è un demenziale, che è molto interessante oggi fare un film demenziale, perché la politica è talmente più demenziale di qualunque idea demenziale. Angels of Rock and Roll di Massimo Monacelli è un film interessante anche perché è un film muto, musical. Poi c'è Il pranzo di Natale di Antonietta Lillo, che è stato presentato come esempio di film partecipato. Pinucciolo Vero, la seconda parte di questa stranissima storia del becchino numero uno d'Italia di Pippo Mazzini. Insomma, questi qua sono un po' i film in concorso. Poi faremo un omaggio a Renato De Maria oggi con la proiezione di Paz, che insomma ci sta molto a cuore, no? 77, quello spirito che dovremmo un po' recuperare. Sì. Chiedi al 77 se non sai come si fa, cantavano i Ciccicci. Senti, bisogna rimetterlo in giro questo 77. Senti Roberto, tra l'altro c'è un omaggio anche al teatro, e un certo tipo di teatro. C'è Pietro Faiella, che avevamo avuto anche ospite qui al Radio Teatro. Sai che noi facciamo gli spettacoli dal vivo in studio con il suo Mondocane, se non mi sbaglio, avevamo presentato meraviglioso. Beh, lui è un po' un amico, già l'anno scorso ha fatto una cosa molto interessante con dei provini, degli screening ai giovani attori a Bruxelles, è stato molto divertente. Questa volta fa un piccolo omaggio, piccolo grandissimo omaggio a Carmelo Bene, che si avvale di DJ e VJ, molto interessante, un incrocio tra performance d'attore, video, e quindi una serie di video importantissimi di Carmelo degli anni, sia televisivi sia di frammenti cinematografici, e soprattutto questo lavoro musicale fatto da un DJ francese molto interessante, di cui in questo momento non mi ricordo il nome, ma è bravissimo, e che in qualche modo cerca di riportare i livelli fantastici che Carmelo utilizzava, no? A livello di voce, di controllo della voce, eccetera, nel sound e nei rumori musicali. È un effetto molto, molto importante. Si chiama Modi diversi di resuscitare Bene, tra parentesi, inversi, Ascesa al Monte Carmelo. È un reading che faremo nell'ultimo giorno dopo la consegna dei premi. Senti Roberto, visto che si tratta di una edizione importante a tutto tondo, una 30ª edizione, come si è sviluppato? Che caratteristiche ha assunto nel suo percorso questo festival? Dunque, all'inizio il festival è stato fondato dalle ACLI ed è stato un festival che partiva da una considerazione interessante. I sulmonesi sono in giro per il mondo perché l'emigrazione ci ha distrutto, è stata un'economia sempre massacrata dal governo sabaudo, dallo Stato unitario, eccetera, e quindi vogliamo fare una specie di ricognizione dei sulmonesi nel mondo. Quindi le prime edizioni sono state sul Canada e sull'Australia. Credo che Sulmona abbia fatto la prima rassegna di cinema australiano in Italia, nel momento in cui Peter Weir esplodeva, e quindi è stata una cosa di grande lucidità. Poi c'è stato un periodo molto interessante di Latino America, cioè il Sulmani è diventato il punto di riferimento del cinema latinoamericano, tant'è che quel gruppo poi che adesso si è spostato a Trieste, insomma è lo stesso che era qui a Sulmona negli anni 90. Poi su una intuizione, insomma in qualche modo il cinema italiano, nonostante tutte le difficoltà, tutti i disastri, tutti i finanziamenti sballati, eccetera, stava in qualche modo rinascendo anche grazie alle nuove tecnologie, quindi da una quindicina d'anni, cioè da metà del suo percorso, il centro di Sulmona è stato il giovane e giovanissimo cinema italiano. Mm-hmm. Però naturalmente essendo Sulmona poi una città che ha dei numeri tutelari pazzeschi come Ovidio, e quindi anche lì scontro politico, esilio, migrazione, eccetera, e Carlo Tresca, anarchico, molto interessante, un anarchico talmente bravo nelle lotte dal basso, nella tutela dei diritti negati, dei poveri, degli operai, eccetera, abbiamo seguito dei filoni che in genere sono stati quelli un po' che hanno caratterizzato Sulmona negli ultimi anni, sul cinema anarchico, sul cinema della provocazione, sulla pornografia femminista, sui grandi intellettuali che in qualche modo hanno avuto a che fare col cinema, quindi Arceau, Genet, Beckett e Carmelo Bene. Quindi questa è più o meno la storia di questo festival, che naturalmente adesso con 30.000 euro di budget ha veramente tante tante difficoltà, e il sindaco qui è molto di destra, e quindi pure con sfumature omofobiche, insomma ci sono delle nostre battaglie, però l'associazione sono talmente bravi, talmente scatenati, che è bellissimo fare i piccoli festival, ripeto, piccoli festival, ma se sono combattivi sono come i grandi festival. Allora Roberto, ci vedremo a Sulmona, ci vedremo mi sa proprio domani, e volevo anche anticiparti una cosa, che noi come al solito ogni inizio di nuovo anno, quindi la prima puntata di gennaio, faremo la cinquina con degli ospiti critici, nostri amici e nostre amiche, quindi le cinquine dei film usciti in sala che abbiamo preferito in questo anno. E quindi, ma io ne ho 40, come faccio? Tu dovrai ridurli a 5 e sarà difficile. E sarai nostro gradito ospite, insomma. Va bene, allora ci risentiamo. Senti, per saperne di più sul festival, ci dai riferimenti internet? Mi piacerebbe, io credo che facendo www.sulmonacinema.it qualche cosa esce fuori. Bene, sì, bene. Più o meno adesso è facile, con Google esatto. Si trova. Poi si mette 30° anniversario, esatto. Oppure Sulmona Cinema 2012 arriva tutto. Roberto, un abbraccio, ci vediamo domani. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Roberto Silvestri, direttore della 30ª edizione del Sulmona Cinema Film Festival al Cinema Teatro Pacifico, in pieno svolgimento, finisce sabato 8 dicembre. Parliamo ora di un'iniziativa interessante che subito ad occhiato, e allora ho voluto saperne di più, lo faccio proprio in diretta con Enzo Bevar di Cinemovel, che è stata più volte nostro ospite per Libero Cinema in Libera Terra, questa volta per il progetto Schermi in Classe. Enzo, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie, ciao Federico. Allora, raccontaci un po' di questo importante progetto. Questo è un progetto che nasce proprio dall'esperienza del festival al quale accennai precedentemente, ovvero Libero Cinema e Libera Terra, una carovana, un festival internazionale ormai di cinema itinerante, nato sui beni confiscati alle mafie, nato a Portella di Chitella Ginestra assieme alla cooperativa delle cooperative di Libera Terra, e che ormai da 8 anni ha raggiunto quasi 100 tappe in tutta Italia. Durante il mese di luglio è una carovana che attraversa tutta l'Italia cercando di raccontare i territori e aprirsi ai territori. Da qui appunto, dall'esperienza con i ragazzi, con le cooperative, con i registi e con gli autori, abbiamo dallo scorso anno iniziato un progetto nelle scuole, che è un po' diverso, nel senso che non è solo il cinema al centro del progetto, ma è l'audiovisivo in generale. Per cercare di essere conciso, e poi rinviando tutti chiaramente anche ai vari siti internet, l'idea è quella di mettere a disposizione degli studenti strumenti 2.0, quindi gruppi su Facebook, ricerche su YouTube, collegamenti Skype con vari ospiti, in modo tale da far partecipare gli studenti, i ragazzi delle diverse età che coinvolgiamo attivamente nella ricerca. appunto trovare i materiali che parlano di mafia e legalità, condividerli attraverso determinati strumenti, commentarli tra di loro e portare avanti una ricerca che è più che partire dal basso, parte direttamente dai ragazzi che scoprono ormai, con una generazione anche abbastanza distante da tanti eventi della nostra storia, elementi altrimenti un po' più difficilmente comprensibili, credo. Altro elemento importante è comunque la proiezione nelle scuole o comunque in altri luoghi dei film veri e propri. Assolutamente. Screaming Class in realtà nasce proprio dall'idea di riallestire delle sale cinematografiche digitali nelle scuole italiane. Questo perché comunque ci siamo resi conto negli anni che è sempre più difficile per gli studenti e per i professori uscire dalle scuole e andare al cinema a vedere un film come strumento parallelo alla didattica tradizionale, qualcosa di sicuramente molto efficace. Noi abbiamo provato a invertire il flusso, cioè nel senso andare noi nelle scuole, allestire delle sale cinematografiche dove si possono vedere dei lungometraggi, o ci si può collegare alla rete e fare un lavoro di natura diversa ma comunque complementare. Mm-hmm. Le immagini a favore della didattica, un po' per riassumerla, è questa molto l'idea. Quindi anche con l'intervento poi degli autori con cui poter affrontare il discorso e poi fare domande, insomma informarsi. Assolutamente, il bello poi di tutto questo, noi ti dico, lo scorso anno abbiamo provato per la prima volta un'esperienza pilota e noi per primi siamo rimasti stupiti dalla partecipazione. I ragazzi ci chiedevano di coinvolgere un magistrato piuttosto che un autore o un regista e la risposta era velocissima, immediata e tendente a dei costi assolutamente contenuti, quindi era facile metterli in collegamento Skype con Giulio Cavalli piuttosto che con magistrati della... con magistrati distanti anche fisicamente che avrebbero avuto sicuramente difficoltà a raggiungere quei luoghi, con gli autori, i registi, gli attori, comunque varie persone che autonomamente i ragazzi hanno continuato a intervistare anche quando il progetto era temporalmente finito. Ricominceremo quest'anno sempre a Castelfranco e stiamo cercando di allargare comunque il progetto a una dimensione nazionale, perché sarebbe molto interessante mettere in rete tutta questa voglia di sapere, di condividere, di commentare da parte degli studenti con una facilità che ormai è assolutamente alla portata. Avete già una data di partenza per questo nuovo progetto, Enzo? A febbraio ripartiremo sempre a Castelfranco Emilia e nei luoghi colpiti dal terremoto nella regione Emilia-Romagna. A settembre invece del 2013 siamo al momento in gara nella fase finale del bando di Che Fare per uno startup di impresa di innovazione sociale. Cerchiamo chiaramente tante strade per far partire il progetto su una dimensione nazionale e speriamo a settembre di poter raggiungere molte più città, molte più scuole e molte più regioni con il nostro progetto. Per chi volesse informarsi, ci dà indicazioni internet? Sicuramente sul nostro sito, che è cinemovel.tv, si trovano tutti i nostri progetti e tutte le nostre iniziative. Nello specifico, anche al momento sul sito di chefare.com si trova il progetto Screaming Class, percorsi di legalità, al quale chiediamo, per chi ne ha voglia, di votare come contributo alla realizzazione del progetto. Bene. Allora Enzo, ci sentiamo magari più in là nel corso del 2013 per sapere come si sta sviluppando. Nel frattempo un abbraccio e un in bocca al lupo. Crepi il lupo e grazie mille. A presto. A presto. Ciao Enzo. Ciao Federico. Ciao. Enzo Bevar di Cinemovel per il progetto Schermi in Classe. Questo è Visionari su Onda Rossa. Vi ripeto i contatti, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info per inviarci sms in diretta 342-357-4357. Daniele Lupi del Cine Club de Tour per la rassegna Mario Underground dal 6 al 9 dicembre. Daniele, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Ciao Federico, buonasera a tutti. Tutto bene? Tutto bene, sì, siamo pronti, questa sera si inizia, ci abbiamo lavorato da tanto tempo e non vediamo l'ora di aprire le porte, spegnere le luci e partire con le proiezioni. Mario chiaramente è il grande Mario Monicelli, e il titolo Underground, che è diviso in due, una parola unica, dici un po'. Sì, ovviamente è un gioco, forse macabro, molto forse crudele, ma un po' nello spirito di Monicelli, ma un po' nello spirito che volevamo dare noi all'iniziativa. Mario è sottoterra nel senso che bisogna guardare alla sua eredità, bisogna guardare oltre e non guardarsi indietro, certo. con nostalgia, ma è underground anche nel senso, no, della chiave artistica, perché abbiamo voluto dare importanza a certe cose che del mondo della sfera Monicelli, la produzione Monicelli intorno a Monicelli è enorme, come puoi immaginare. Noi abbiamo scelto di proiettare due film, Temporale Rosi e Proibito, che si sono visti poco, insomma, come tanti altri. Lui ha girato 63 lungometraggi, credo abbia diretto. Temporale Rosi in particolare fu un flop al botteghino, ma era un film a cui lui teneva tantissimo, che abbiamo fatto di tutto veramente per trovare, perché non esiste in circolazione. Ci siamo riusciti. E mi scuso fin d'ora con chi verrà poi alla proiezione di sabato, perché la copia non è di ottima qualità, ma il film è comunque godibile, è un bellissimo film del 79 con un Depardieu pugile, spaccaporte, un po' fuori di testa, che si innamora di una lottatrice di catch femminile. E Proibito invece è un film del 54 girato nell'interno della Sardegna, è un film a colori, in Technicolor, uno dei pochi che sono stati fatti poi, insomma, in Technicolor di qualità, e uno dei pochi che erano stati girati in Sardegna fino a quel momento, una sorta di western. E poi invece venerdì ci sarà un'intervista che gli fecero Daniele Cipri e Franco Maresco per una trasmissione di La Sette che si chiamava I migliori nani della nostra vita, e sono 25 minuti di puro spettacolo, tutto incentrato sulla morte, questa intervista. E quindi capisci perché Under staccato ground. Certo. E poi questo documentario che fu finanziato nel 2004 dalla Cineteca del Friuli, dove Mario viene ricondotto da Oreste De Fornari e Gloria De Antoni sulle trincee dove girò la grande guerra. Questa sera invece apriamo con Lettere dalla Palestina, ne sai qualcosa, sarai tra i nostri ospiti, ci saranno anche Maurizio Carrassi e probabilmente anche Vilma Labbate riuscirà ad intervenire. E Lettere dalla Palestina è un film collettivo prodotto dalla Fondazione Cinema del Presente di Mauro Berardi, la stessa che ha prodotto Carlo Giuliani Ragazzo, Un altro mondo è possibile, tutti film che intendevano raccontare il presente, la contemporaneità, i cambiamenti dell'era globale. E così Lettere dalla Palestina è uno squarcio, un ritratto della vita nei territori palestinesi, della vita nelle sue sfumature più creative, più piene di entusiasmo, insomma. Non è un ritratto nero o drammatico, è un ritratto, secondo me, pieno di vita e pieno di colori. Oh, mi fa piacere, Daniele, questo vostro invito, perché chiaramente, ricordiamolo anche, Mario Monicelli aveva un rapporto privilegiato con Radio Onda Rossa, era la radio che ascoltava stabilmente, e con Visionari era un ospite più o meno fisso, era un battitore libero, lo sentivamo e andava a ruota libera su tutti gli argomenti. Quindi e tutto questo mi stavo notando che è un periodo in cui vengo invitato anche per quanto riguarda il discorso teatrale, ma anche quello cinematografico, e questo vuol dire che, insomma, ha un valore questi esperimenti che portiamo avanti, sia per quanto riguarda l'aspetto teatrale, che facciamo proprio gli spettacoli dal vivo in studio, e sia questa attenzione al cinema e soprattutto agli autori e in particolare ai documentaristi. Insomma, mi sembra un riconoscimento importante. Sicuramente, ti posso raccontare questo piccolo aneddoto, che nel momento in cui mi sono avvicinato, insomma, mi sono addentrato più che avvicinato, perché Mario era comunque un vicino di casa, no? Lui è sempre del Rione Monti come noi, sì. Ma nel momento in cui ho iniziato ad approfondire il mondo di Mario, è venuta fuori l'importanza che aveva la radio nella sua quotidianità, sì. E in particolare il rapporto con Radio Onda Rossa, sì, sì. Io ho collaborato con Chiara Rapaccini per organizzare questa 4 giorni, e una delle prime cose che mi disse: ci deve essere Radio Onda Rossa. Sì, sì, sì, sì. E tra l'altro poi lui per il suo ultimo film ci contattò anche per avere un contributo musicale per le musiche. Poi la cosa non andò, anche un po' per nostra cialtronaggine, ma comunque era un rapporto costante, tant'è vero che poi con Ottavia, una delle figlie di Mario, abbiamo dato vita a una nuova trasmissione di favole per bimbi con attori e attrici che raccontavano favole per bambini. Abbiamo portato avanti circa una ventina di puntate. Anche quello è stato un modo per tenere viva la memoria di Mario e portare avanti anche il suo discorso artistico e intellettuale. Sì, che è quello che vorremmo fare noi, perché come mi capita spesso, fortunatamente, di ripetere in questi giorni, l'importanza di Mario Monicelli come regista delle commedie, comunque nel cinema italiano, questa qui è alla luce del sole, no? È nota e chiara a tutti, ma sì, l'importanza sì, di Mario Monicelli invece nella cultura italiana del Novecento forse insomma è anche da rivalutare, cioè non è detto che non sia stata già valutata giustamente. Parliamo di una persona che ha iniziato a fare cinema nei primi anni 30 e l'ha fatto fino al 2008. Sì, no? E mi piace anche questa vostra scelta, nel senso avete optato per opere poco conosciute, ma anche degli inediti ci sono in programma. Sì, esattamente, anche degli inediti. Allora Daniele, ci si vede questa sera, ricordiamolo che questa rassegna andrà avanti fino a domenica 9 dicembre, Mario Underground, immagino che i riferimenti siano sul sito internet del Cineclub de Tours. Sì, www.cinedetour.it. Benissimo, allora a stasera. A stasera, grazie Federico, ciao a tutti. Un abbraccio, ciao. Daniele Lupi del Cineclub de Tours per la rassegna Mario Underground dal 6 al 9 dicembre. Noi saremo lì questa sera e sarà un piacere anche avervi tra noi, tutti voi e tutte voi. Abbiamo con noi Adriano Chiarelli, regista del documentario Nei secoli fedele, il capo di Giuseppe Uva. Ne avevamo parlato proprio con lui in occasione della presentazione del documentario al Nuovo Cinema Aquila a fine settembre. Adesso torna in sala, questa volta al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino. Questa sera, Adriano, ci sei? Ciao. Allora, stavo anticipando rispetto al fatto che ci eravamo sentiti in occasione della presentazione al Nuovo Cinema Aquila a fine settembre. Adesso questa sera invece sarà proiettato al Forte Prenestino. Cominciamo a parlare per chi non conoscesse quanto successe a Giuseppe Uva di questa vicenda. Sì, tutto accade a Varese una notte di giugno del 2008, la notte tra il 14 e il 15 giugno 2008, Giuseppe Uva, che ha 42 anni, gira per strada con suo amico Alberto Bigiogero dopo una serata di bagordi per festeggiare una partita nazionale e viene fermato dalla polizia, no, da una gazzella dei carabinieri, mentre lui e suo amico spostano delle transenne bloccando una strada. E da lì comincia una colluttazione, una fase concitata che porta poi all'arresto di tutti e due, sia di Giuseppe che di Alberto. Due vengono portati in caserma anche con l'ausilio di alcune pattuglie della polizia e vengono separati in due stanze diverse. Sì. E, dalla sua stanza Alberto sente quello che a tutti gli effetti pare un pestaggio, sente l'amico urlare aiuto, pietà, finché non parte una chiamata dalla caserma all'ospedale locale in cui uno dei carabinieri chiede un'ambulanza e l'intervento della guardia medica. Arriva la guardia medica e ordina addirittura un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. La mattina dopo muore. Questo è in sintesi l'accaduto ed è ciò che poi vado ad raccontare nel dettaglio nel documentario. Allora, partiamo dalla versione ufficiale di come è stata ricostruita la vicenda dalle autorità. Sì, la versione ufficiale, che poi quella ha dato impulso al processo di cui magari si basa esclusivamente sugli 8 verbali, 6 verbali di polizia e 2 dei carabinieri, quindi 8 pubblici ufficiali intervenuti nell'arresto di Giuseppe Uva, e tutti danno la stessa versione, ovvero parlano di atti di autolesionismo, quindi Giuseppe che sbatteva la testa da solo contro una scrivania, che si dimenava, dava incandescenze, si parla di uno stato di agitazione psicomotoria che hanno richiesto l'intervento urgente di una. Questa è la versione ufficiale, inappellabile, perché è difficile smontare 8 verbali di polizia che dicono tutti la stessa cosa. Sì. Ed è su questi 8 documenti che si è costruito poi il processo, a carico dei medici invece che hanno tenuto Giuseppe Uva in ospedale, accusati di omicidio colposo per non avergli per avergli somministrato degli psicofarmaci incompatibili con il suo stato di ubriachezza. Mm-hmm. Quindi il processo, secondo l'accusa, la pubblica accusa, per omicidio colposo, vede imputati dei medici, che un medico in particolare, che poi alla fine ad aprile. Oh, Adriano, questa vicenda ha avuto in qualche modo un qualche tipo di risonanza a livello di, dei mezzi di informazione. Tu come hai svolto il tuo lavoro e che ricerche hai fatto e a quali risultati sei arrivato? Diciamo che la maggior parte delle ricerche dello studio documentale l'avevo fatto già per il libro Ma la polizia. E nel libro, dal libro ho isolato questo caso perché mi è sembrato il più complesso e più, tra virgolette, purtroppo interessante da raccontare, e quindi ho lavorato su, principalmente sulle fonti, poi chiaramente siamo stati con una piccola troupe 3 mesi lì a indagare proprio sul campo, e l'opinione che mi sono fatto è che la verità poi nessuno conosce, la potrà mai conoscere a fondo, la verità è ben diversa da quella dibattuta in aula, perché diciamo, ad una prima analisi per esempio dell'autopsia che è stata fatta sul corpo, la prima autopsia e poi anche la seconda, perché c'è stata addirittura una riesumazione dopo 4 anni, parlano di vere e proprie violenze, e il giudice di questo se ne è convinto, la pubblica accusa ancora no, insiste sulla tesi delle colpe mediche. In più la testimonianza di Bizzotti non è stato sentito, che avrebbe molti elementi importanti da offrire in sede di dibattimento, perché ha sentito tutto, ha visto anche le prime fasi dell'arresto che erano comunque violenti, ha visto un atteggiamento preciso da parte di Carabinieri e Poliziotti di ostilità eccessiva nei confronti di Giuseppe Uva. Lui non è mai sentito in aula, non sono stati mai sentiti in aula neanche i 6 poliziotti e 2 carabinieri, nemmeno come testimoni. Mm-hmm. Quindi diciamo, il processo si è articolato un bel po' in una maniera che appare a tutti deviata, prima di tutto ai legali della sorella di Giuseppe, cioè la Uva, ma anche all'opinione pubblica e ai giornalisti che hanno seguito tutta la vicenda, e anche a me. Mm-hmm. Oh, Adriano, visto che comunque ti sei occupato anche di un libro, Ma la polizia, che affrontava più casi, tra i quali poi hai scelto questo in particolare perché è più significativo, però comunque anche rispetto ad altri casi che si sono verificati e di cui a volte i mezzi di informazione hanno dato conto, sembra un atteggiamento abbastanza ricorrente che siano poi questure o caserme di città o di piccoli centri, dal nord al sud, insomma è piuttosto uniforme come fenomeno. Sì, uniforme e ricorrente, ma soprattutto una cosa che, cioè, l'aspetto più spaventoso secondo me è che la violenza poliziesca non si limita poi solo ai contesti di piazza o di pubblica, ma va a esercitarsi anche dentro le case, proprio dentro la propria sfera privata, ovvero tu cammini per strada e può essere che non torni a casa, come è successo a Federico Aldrovà, è successo a tante altre persone. Quindi c'è un problema, scusate un po', quindi c'è un evidente problema di devianza poliziesca e di violenza insita nell'esercitare questa professione in una grande parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, è diventata una dimensione quasi connaturata a questo mestiere. Mm-hmm. Ecco, le cause sono tante. Proprio in questo, ecco, visto che parli di cause, che ce ne sono tante a tuo modo di vedere, è un problema, come si dice, dalle autorità, di poche mele marce, oppure ci sono, in qualche modo c'è un lasciar fare, o se non addirittura delle direttive in tal senso? Direttive ci fossero non potremmo mai provarle. Certo, certo. Sarebbero, però non nascondo che come me e anche tanti altri che si occupano cominciano a pensarci, ovvero delle direttive, diciamo, chiamiamole così, che si rivolgono soprattutto nei confronti delle fasce più deboli e disagiate. Perché se andiamo a vedere il retroterra esistenziale delle vittime, provengono quasi tutte da, appunto, ali in parte di dissenso ma anche di disagio, persone con problemi di alcolismo, persone con problemi di droga, persone senza un lavoro fisso, persone senza fissa dimora. Quindi se non c'è un programma vero e proprio, c'è una tendenza che è ben chiara, sì. Ovvero prendersela con i più deboli, molto semplicemente questo. Ecco, in questo senso ci sono a livello di cittadinanza dei modi di auto-organizzarsi per far emergere sia questo quanto succede sia per prendere delle intervenire in qualche modo rispetto a questo? Sì, fioriscono molte associazioni con intenti nobili, altre esistono già da tempo, penso ad Antigone che comunque si occupa di tema, che il problema chiaramente riguarda e riguarderà forse anche di più il carcere, penso a Bondiritto del professor Manconi, spazia dalla repressione violenta a tematiche legate alla psichiatria, e c'è questa nascente associazione, una rete nazionale per abuso in divisa, che si preoccuperà di fornire una rete di legali sparsa su tutto il territorio con compiti di intervento, ovvero subito dopo l'eventuale svolgersi di un fatto violento ci sono dei numeri di telefono a disposizione per far intervenire chiunque in qualunque posto, molti avvocati in qualsiasi posto d'Italia. E questo si sta formando adesso. Sì, ce ne sono a vario titolo, più o meno efficaci. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento per questa sera al Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino qui a Roma, la proiezione del tuo documentario Nei Secoli Fedele, il caso di Giuseppe Uva. E poi volevo chiederti, Adriano, se c'è un ci sono riferimenti internet sia riguardo al tuo libro Ma la Polizia che riguardo al documentario nello specifico. Sì, si possono cercare un bel po' di articoli. Interviste, interventi dei familiari, oppure iscriversi al gruppo Facebook Polizia, che ormai funziona quasi come un giornale. Un sito non lo abbiamo ancora. Però c'è, ma la polizia si trova sul Facebook. Bene, Adriano, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Grazie a voi e vi aspetto stasera. Ciao Adriano. Adriano Chiarelli, regista del documentario Nei Secoli Fedele, il caso di Giuseppe Uva. Proseguiamo. E ritroviamo Maura Del Pero, in questo caso regista del documentario Nadea e Sveta. Maura, benvenuta, ben ritrovata a Visionari su Onda Rossa. Ben ritrovato Federico. Allora, un po' di rumori, sono alla ricerca di un luogo tranquillo per parlare con te. Allora, ci eravamo già sentiti per il tuo lavoro precedente un po' di tempo fa, non ricordo quando, comunque ricordo bene te. Questa volta parliamo di un documentario che è stato presentato al Torino Film Festival e ha ottenuto due riconoscimenti importanti. Sì, il premio Ciputi e una menzione del premio Ucca. Allora, raccontaci un po' di questa storia. Allora, il film parla di queste due donne, Nadia e Sveta, sono due donne moldave immigrate in Italia per questioni di lavoro, per questioni economiche. Sono donne che sono migrate sole, che hanno lasciato i loro cari, come la maggior parte di queste donne hanno lasciato i loro cari all'estero e per tanto tempo non li possono rivedere. E il film si concentra su questo, su questa questione degli affetti sospesi, di che cosa significhi migrare sole, vivere lontano dalle persone amate e poi eventualmente ricostruire dei rapporti con queste persone che non si vedono per tanto tempo. Maura, tu eri partita con l'idea di parlare di storie di queste donne che affrontano questo viaggio, o è nato tutto da una conoscenza personale di queste due donne? No, è nato da... Io avevo fondato un'associazione tanti anni fa per insegnare italiano ai migranti, queste donne dell'est che vengono in Italia per lavorare soprattutto come badanti, come donne delle pulizie, venivano spesso alle nostre lezioni, per cui io ho iniziato a conoscerle sempre di più e a conoscere le loro storie. Parlando con loro, appunto, mi sono un po' appassionata a queste storie di vita e anche... mi sono anche molto interrogata su questa storia di vita, per cui volevo fare un film su di loro. Quindi sono, poi diciamo, avevo il vantaggio di conoscere ormai i loro ambienti, le loro abitudini, sapevo dove cercarle e quindi sono andata a cercare delle persone. Poi io dopo le persone le scelgo a pelle, mi devono piacere, le devo sentire e credo che debbano avere anche così un impatto cinematografico. Secondo me sono due donne che hanno un impatto molto forte visivo, sono molto epidermiche, ecco. Per cui ho scelto loro. E proprio a proposito degli interrogativi che ti pongono, che ti hanno posto, dici un po' qualcosa a proposito. Ma sono tanti. Diciamo, la domanda era un po' come si fa a vivere così tanto tempo lontano dalle persone amate, in particolare dai bambini, quindi anche non vederli crescere, come si può ricostruire un rapporto con loro dopo, quanto sia giusto farlo. Sono domande che si pongono anche loro, perché poi dalla Moldavia non si emigra per fame, ma per dare un futuro migliore ai propri figli. Io ho parlato tanto con loro di questo e sono interrogativi che rimangono aperti. A me interessano molto le storie delle persone, soprattutto quando permettono poi così di passare dal particolare all'universale. Credo che sia un film che pone una serie di interrogativi sulla maternità, sugli affetti, sull'identità geografica e l'identità appunto degli affetti, no? Dov'è la casa? La casa sta dove sta il lavoro o dove stanno i figli, dove c'è un futuro migliore per loro. Sono storie di vita molto intense per questo, perché la posta in gioco è sempre molto molto alta. Ecco, proprio a proposito del livello universale che citavi, visto che comunque di questo aspetto ti sei occupata anche in passato ed è stata poi la molla che ti ha portato a volerne fare un documentario, quali sono le caratteristiche che accomunano un po' queste esperienze, secondo la tua esperienza? Ma le accomuna sicuramente un fortissimo senso di nostalgia, un inconsolabile senso di nostalgia. In realtà le accomuna anche un senso di spaesamento che passano queste persone a un certo momento. C'è un momento in cui nessun luogo è più casa, perché non lo è ancora l'Italia, non lo è più il paese d'origine. Altre volte invece c'è un processo di integrazione mai gratuito, però che comunque porta anche a dei risultati interessanti. Nel film in realtà le due donne presentano poi proprio due rapporti diversi con questo integrarsi, con questo voler trovare una nuova casa oppure ritornare alla casa originaria. In generale sono donne accomunate da questo destino, che tendono poi anche a unirsi molto tra di loro e a condividerlo e quindi a creare delle famiglie femminili all'estero. Quindi condividono anche, diciamo, una esperienza di immigrazione che crea delle nuove famiglie, che ne so, che passano il Natale tra amiche, oppure che si aiutano, no? In maniera, per esempio, uno degli aspetti secondo me che c'è nel film è che la questione della maternità viene affrontata in maniera anche molto indiretta e anche in maniera inaspettata. Per esempio, il rapporto di amicizia che c'è tra i due protagonisti, secondo me è anche un rapporto in parte di maternità, perché una delle due è più grande dell'altra ed è molto protettiva rispetto all'altra, ed è una cosa che io ho trovato spesso in questi gruppi di donne, cioè che ci sia una protezione reciproca e che a volte si creino dei rapporti così di protezione, di maternaggio, reinventati, nuovi. Ecco, in parte hai già risposto alla domanda che mi veniva in mente ora, nel senso, hai parlato di queste comunità, piccole comunità solidali che si vengono a creare, e però prima hai parlato anche di due tendenze, una allo sradicamento, una all'integrazione. Ecco, quali sono a tuo modo di vedere chiaramente i modi più utili a loro per superare queste difficoltà? Io, quando ho fondato questa associazione per insegnare italiano ai migranti, l'ho fatto mossa dalla convinzione che la lingua sia sempre lo strumento principale per muoversi nel mondo, insomma, per essere in grado di così non essere assolutamente isolati. È molto strano, perché in realtà queste persone vivono a strettissimo contatto con gli italiani, spesso vivono nelle loro case, e però poi c'è una distanza data dal fatto che molti italiani le vivono un po' pensandole come un ruolo, e quindi è la mia badante o la mia babysitter, e io credo che ci vorrebbe un po' da parte italiana un po' di sforzo nel cercare di conoscere le vite delle persone che vivono così tanto tempo nelle nostre case. Da parte loro c'è un po' di diffidenza, non lo so se sia, come dire, un tratto, che ne so, sociologico, antropologico dell'est Europa, o se sia invece molto più probabilmente una sorta di abitudine a questa indifferenza che vince nei confronti delle persone che ormai fanno parte della nostra società in maniera radicale e fondamentale. Chi lo sa, io effettivamente, Nadia e Sveta dicono che io sono l'unica amica italiana che hanno, e non mi stupisce. Chi lo sa, bisognerebbe un po' interrogarsi su come vivono gli italiani questa nuova Italia, questo rapporto. Senti Maura, Nadia e Sveta, il tuo documentario dove sarà possibile fruirne? Facci sapere qualcosa. Guarda, è ancora un grande punto di domanda, nel senso, Torino è l'anteprima mondiale, adesso stiamo cercando un'anteprima internazionale, speriamo altrettanto prestigiosa, e poi chi lo sa, stiamo facendo un po' di chiacchiere in questi giorni, chiaramente cercare e trovare una distribuzione per un documentario in Italia è sempre una scommessa, speriamo, sì, speriamo che giri il più possibile. Io, lo so, ne parlavo ieri, qui in Cineteca a Bologna, e mi dicevano: ma il tuo film comunque ha anche un grande vantaggio, che è quello che sceglie di utilizzare un linguaggio molto vicino al cinema di finzione, quindi in qualche modo si avvicina a un pubblico anche molto più grande che quello abituato solo a un certo tipo di cinema. Io, diciamo, la grande gioia che ho avuto a Torino è stato che ho sentito un pubblico coinvolto, non solo pubblico specializzato, ma anche un pubblico più generico, cioè i torinesi che vanno al cinema. Insomma, ho avuto modo di parlare con tante persone che si sono emozionate, che hanno sentito importante questo film, per cui spero che effettivamente potrà parlare a più persone, e niente, bisogna trovare le sale. Senti, tu hai un sito internet per... Guarda, lo stiamo costruendo, okay. Ancora non c'è, per cui per ora, diciamo, ci sono una serie di notizie online, qualcosa su, cioè, su cinemaitaliano.info, ci sono un po' di notizie sparse, però il sito, insomma, ci stiamo lavorando, adesso usciti dal Festival di Torino... Ci mettiamo di buona lena. Ci farai sapere. Maura, io ti abbraccio, a risentirci alla prossima. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Maura Del Pero, regista del documentario Nadia e Sveta. Visionari su Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per inviarci posta elettronica, l'indirizzo è visionari@ondarossa.info. Allora, ben ritrovato a Gaetano Di Vaglio, ci sei? Salve, sì, ci sono. Oh, è un piacere averti con noi, ci eravamo sentiti per il tuo precedente lavoro, Il loro Natale, questa volta per il documentario Interdizione Perpetua che hai portato insieme ad altri autori, avete fatto una sorta di tripletta al Festival del Cinema di Roma per quanto riguarda il microcosmo di Scampia. Interdizione Perpetua, mi piace già dal titolo, di cosa parla Gaetano? Parla di un'interdizione perpetua, di fasce sociali condannate all'interdizione perpetua sostanzialmente, diciamo, che è una cosa giuridica ma è anche nei fatti, cioè non necessariamente persone condannate dai magistrati all'interdizione perpetua, ma condannate dalla società all'interdizione perpetua, perché c'è una società che ha deciso che devono esistere aree e fasce sociali che devono stare un po' al di fuori di determinati meccanismi, determinati giochi. Oh, sì. Infatti poi voglio dire di vita normale, no? Certo. Cioè, dove tutti avrebbero diritto, secondo me, ad accedere, almeno alle opportunità, poi se sei bravo o meno a gestire un altro discorso, però almeno avete la possibilità di accedere. E invece quelli che ho raccontato io nel film, nonostante sia gente che si dà da fare per cercare di sopravvivere, quindi sicuramente non è una Napoli che si piange addosso, ma è una Napoli che cerca di fare cose, e che però arrivano leggi assurde, che come nel caso di chi raccoglie il ferro vecchio di notte per strada. Tra l'altro il film è girato nel periodo in cui Napoli sprofondava nei rifiuti, parliamo di aprile dell'anno scorso, aprile 2011, una Napoli che sprofondava nei rifiuti. Io scopro che vengono arrestati queste persone, vengono arrestate che appunto per mantenere le proprie famiglie di notte raccolgono il ferro vecchio dai cassonetti e poi lo vanno a vendere alle ferriere. Pare che questa cosa sia illegale e queste persone vengono arrestate e condannate a 10 mesi di prigione, 8 mesi, oltre ovviamente al sequestro del furgone, il verbale, tutto. Quindi mi sembra una cosa troppo sproporzionata, diciamo, anche se è illegale raccogliere il ferro vecchio per strada, però è sproporzionato, credo, il fatto di mandarla addirittura a Poggio Reale, persone tra l'altro incensurate. No, proprio a fronte del problema rifiuti mi sembra un macroscopico esempio di paradosso e contraddizione per quanto riguarda la gestione. Assolutamente sì, ma era quello l'intento anche, diciamo, oltre a parlare di questa umanità. Nel film non parlo solo di persone che raccolgono il ferro vecchio nella Napoli di rifiuto, parlo anche di muratori in nero, di gente che va a pigliare il pacco alla Caritas, però siccome, come dire, vivevamo una Napoli che era su tutti i giornali, le televisioni, quel tipo di situazione, con i cassonetti non ripuliti per le strade, la gente che protestava, mi imbatto in questi arresti e dico, ma è mai possibile una cosa del genere? Ed era anche un po' un modo per riparlare dei rifiuti visto addirittura da un'altra prospettiva, no? Di un sottoproletariato che difficilmente viene interrogato sui rifiuti e quindi raccontando le loro storie in qualche modo viene fuori, ad esempio, nel loro modo di raccontare che loro si ritengono delle persone che addirittura fanno un servizio invece alla società perché raccolgono questo ferro dai rifiuti o che ne so, riciclano ad esempio delle stufe magari che la gente butta, loro le aggiustano e le riportano al mercato della roba vecchia, qualche televisore, ormai con questi televisori a plasma, sai, tutti buttano sulla spazzatura i televisori, quelli là tipo un po' più ammobile, no? Sì. Loro li raccolgono, li sistemano e li vanno a rivendere al mercato della roba vecchia. Giustamente dicono loro, meriteremmo un premio, non certo la galera. E in ogni caso, per quanto sia illegale, io penso che tu a una persona del genere al massimo gli fai un verbale, ma no che lo pigli e lo porti nel lager di Poggio Reale. Cioè, questo è un crimine, sì, per me. Sì, perché sì. Me commette lo Stato, la legge, non chi raccoglie il ferro vecchio. E quando le leggi non sono giuste, secondo me non vanno rispettate, questo lo dice pure il sindaco De Magistris. Senti Gaetano, ma tu volevo sapere anche questa cosa, tu occupandoti di questi settori di disagio sociale, conoscendoli hai poi deciso di farne un racconto oppure con l'intenzione di farne un racconto li sei andati a cercare? No, no, io in realtà in quel periodo stavo facendo un servizio per Riccardo Iacona di Rai 3, una puntata che si chiamava Il Popolo, e quindi mentre facevo sto lavoro dove andavo a cercare storie per quel tipo di puntata, mi sono imbattuto in questo tipo di storie che poi vediamo all'interno di Sera, quindi ho deciso di tenerle da parte, ho dato un passaggio comunque a loro di Rai 3, di quello che avevo visto, e poi le ho approfondite, le ho seguite di notte, no? Quando questi escono col furgone, sono stato con loro a raccogliere il ferro sui cassonetti, vedere un po' quello che facevano, dove andavano a buttare questo ferro, no? Cercare anche di capire poi che fine faceva, quanto ci guadagnavano, parliamo di 15 euro una notte intera, quindi come dire, è assurdo, io ti ripeto, non l'ho cercata, l'ho trovata. Che poi credo che è il lavoro che debba fare chiunque di noi che sta in questo campo, cercare, cioè, o cerchi o ti imbatti in storie particolari, decidi poi di seguirle, di raccontarli. Il titolo poi non è un caso, Interdizione Perpetua, perché poi, per quelli pochi che lo sanno, io stesso sono una persona con un passato particolare, per cui sono condannato all'interdizione perpetua in termini di magistratura, però. E quindi mi sembrava, come dire, dare questo nome al film, cioè io faccio il produttore oggi, però mi è vietato ad esempio andare negli Stati Uniti, mi è vietato andare in Russia, perché quando avevo 20 anni ho commesso degli errori e tuttora ne pago le conseguenze, quindi anche la mia carriera professionale di produttore in qualche modo è limitata da questa interdizione perpetua, oppure che ne so, non posso occupare cariche pubbliche. Perché quando ero ragazzo mi trovavo, ho fatto dei reati, sono finito in prigione, quindi anche se dopo 20 anni sono un uomo che fa cultura, un uomo che fa cinema, un uomo che ha lavorato 4 anni nel carcere minore di visita, parte dalla propria esperienza, cercare di diffonderla ai ragazzi, talmente di quelle attività che fai fatica ad elencarle tutte, però questo non riscatta in qualche modo, secondo la giustizia nostra, quello che i guai, diciamo, che ho fatto da giovane quando facevo uso di sostanze stupefacenti, e quindi me lo trascino. E nel momento in cui mi sono imbattuto nelle storie di questi esseri, che mi è sembrato anche un modo per raccontare anche me, alla fine, certo, attraverso loro, certo. Diciamo. E comunque nel nostro piccolo noi invece valorizziamo il tuo lavoro, perché spesso quando possiamo ti sentiamo sempre volentieri, insomma, Gaetano. Grazie. Senti, per saperne di più sul tuo lavoro, anche su Interdizione Perpetua, anche rispetto a eventuali distribuzioni o prossime proiezioni pubbliche, hai un riferimento internet? Guarda, vabbè, bisogna collegarsi al Facebook Gaetano Di Vario Figli del Bronze, lì che è un po' stanno informazioni. Comunque, Interdizione Perpetua sarà presentato a Napoli il 25 gennaio con AstraTalk. E poi dovrebbe uscire in 4-5 città italiane, Roma, Milano, quelle un po' più grandi e importanti, dopodiché ci sarà un'uscita in DVD per la Minerva e la Rovigno. Quindi comunque avrà un suo percorso, tu sai che i documentari sono sempre difficili, certo, comunque certo, da far circuitare, però un po' con un video ormai con la Minerva Metanti collaboriamo, pure loro avranno uscito in DVD, quindi comunque è un buon modo per vederli, si vedrà in qualche piattaforma sicuramente online, e varie altre possibilità che stiamo valutando. Chi lo vuole vedere veramente ci contatta su Facebook e troverà il modo di vederlo, oltre che in poche sale che al mese prossimo sapremo quali sono. Benissimo, va bene, ci farai sapere tu anche i prossimi sviluppi. Nel frattempo un abbraccio e un in bocca al lupo, Gaetano. Grazie, a presto. Ciao. Ciao. Gaetano Di Vaio, regista del documentario Interdizione Perpetua. Proseguiamo. Continuiamo con il discorso Scampia e lo facciamo con Michelangelo Severgnini, regista del documentario L'uomo con il megafono, anche questo presentato al Festival del Film di Roma. Michelangelo, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie, un saluto a voi e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Allora, la tua storia di cosa parla? Allora, come dice il titolo, questo documentario è un ritratto di un personaggio, dell'uomo con il megafono, che nello specifico è Vittorio Passeggio, una persona che ha segnato in qualche modo nel suo piccolo la storia del quartiere di Scampia, perché è animatore dello storico comitato degli inquilini delle vele, delle famigerate vele di Scampia. Questo, il comitato è sorto all'indomani del grave terremoto dell'80 che colpì Napoli e la Campania, e da allora è stato, diciamo così, promotore di numerose battaglie civili per le persone, per tutte le persone che hanno abitato le vele, quelle che nel frattempo hanno avuto i nuovi alloggi, che quindi si sono trasferiti, e come racconta il documentario, anche oggi, diciamo alla soglia dei 60 anni, ha avuto ancora la forza di mettersi dalla parte di quelle famiglie abusive che nel frattempo avevano occupato gli alloggi lasciati liberi alle vele, e quindi riprendere la sua battaglia. È una sorta di Don Chisciotte metropolitano, perché possiamo dire che per tutta la vita ha combattuto battaglie più grandi di lui, però è sicuramente un piccolo eroe dei nostri giorni. Senti Michelangelo, come sei venuto a contatto con questo personaggio? Sì, guarda, sinceramente Vittorio Passeggio io avevo avuto la fortuna di conoscerlo già nel 2005, quindi eravamo amici insomma già da alcuni anni. Poi è successo, io non sono di Napoli, mi sono trasferito a Napoli circa un anno e mezzo fa, e già nelle prime settimane del mio arrivo a Napoli il produttore Gaetano Di Vaio mi ha proposto appunto di provare a fare un ritratto di questa persona, e abbiamo scoperto insomma che entrambi nutrivamo una grande stima, una grande ammirazione nei confronti di Vittorio, e quindi è stato tutto molto facile cominciare questo lavoro. E devo dire che nei mesi di riprese tutto è stato molto magico in qualche modo, e quindi insomma questo è il nostro lavoro. Oh, immagino che il suo sia un ruolo sociale riconosciuto a più livelli. Quali sono, a tuo modo di vedere, attraverso anche la tua esperienza, le sue doti, le sue capacità? Ma le sue capacità, appunto, le sue doti sono quelle di fare mobilitazione, di cercare di evitare che la gente si rassegni. Tra le immagini credo più suggestive di questo lavoro è proprio lui con questo megafono di fronte a queste vele, questi palazzoni imponenti, e lui da solo come un piccolo uomo con questo megafono che cerca di incitare la gente a scendere e partecipare alle assemblee del comitato, a partecipare alle lotte, a non quindi rassegnarsi a quello che è l'inerzia di questo luogo, ma cercare con grande fatica, con grande sacrificio però di continuare la lotta. Oh, ecco, dato che noi ci occupiamo spesso e volentieri di auto-organizzazione, funziona nel senso riesce a coinvolgere la gente e ad attivarsi in prima persona? Guarda, è una battaglia molto difficile, in particolare in luoghi come questo, perché comunque le persone che abitano le vele, soprattutto la nuova ondata di questi ultimi anni, di queste nuove famiglie abusive che hanno preso, diciamo, un appartamento alle vele, sono persone che quotidianamente hanno a che fare con problemi molto grandi, e quindi spesso la tentazione è quella di rinchiudersi nei propri spiccioli problemi e non guardare invece a quello che si sta vivendo come a un'esperienza collettiva. Tutti sono sulla stessa barca, e quindi soltanto una volta uniti insieme si possono raggiungere dei traguardi. Questo è il grande messaggio di Vittorio, che però lo voglio ricordare, insomma, lavorare in situazioni di questo tipo non è facile, perché le persone molto spesso non sono in qualche modo libere di scegliere, perché a volte non ne hanno i mezzi sia materiali che morali, e quindi questo sforzo di esplorare le persone è quasi colossale per una persona come Vittorio. Però chiaramente i piccoli traguardi sono stati raggiunti. Io penso anche quest'ultima esperienza che Vittorio ha vissuto è stata straordinaria. Ricordo che comunque il documentario è stato girato a cavallo di quella che è stata poi l'ultima campagna elettorale a Napoli, e quindi Vittorio ha dato prova insomma di un'esperienza di lotta civile enorme, e io spero con questo documentario di aver testimoniato questa sua lotta. Oh, alle vele una realtà importante e fondamentale è quella della camorra e dello spaccio di droga. Volevo chiederti come si pone la camorra e la criminalità organizzata rispetto a questo fenomeno delle occupazioni. Ma diciamo che non è totalmente ostile, perché puoi capire che per la camorra, queste famiglie disagiate che quindi non hanno trovato un posto migliore se non quello appunto di occupare un appartamento nelle vele, sono, come dire, quel bacino, quel famoso bacino preferenziale per la camorra, dove andare appunto a racimolare magari voti anche tramite intermediari quando si tratta di elezioni, oppure manovalanza, la cosiddetta manovalanza. Giustamente si sta tornando a parlare purtroppo delle vele in questi ultimi mesi per quella che è stata l'ultima scia di sangue di questi ultimi mesi, e ancora io penso che il grosso errore è quello di cercare di dividere, di spaccare la società tra buoni e cattivi, ossia quelli che stanno dalla parte della camorra e quelli che stanno contro la camorra. Però vorrei ricordare, diciamo così, la scena con cui il documentario apre, è una scena in cui ben prima che appunto si parlasse di nuovo di questa faida di Scampia e quindi i riflettori si riaccendessero su Scampia, assistiamo a questa scena in cui le forze dell'ordine praticamente allontanano delle donne che volevano impedire che alcuni operai mandati dal comune staccassero il gas in pieno inverno alle vele. Ora io mi chiedo, oggi si fanno questi appelli, lo stesso De Magistris l'ha fatto anche recentemente, perché il territorio venga presidiato, perché le forze dell'ordine difendano in qualche modo la popolazione tra virgolette buona, così come ci vogliono insegnare che sia, a contrastare la camorra. Però nel film si vede che le forze dell'ordine praticamente allontanano le persone perché venga eseguito questo taglio del gas alle vele. Ora io penso che questa è una totale schizofrenia da parte dello Stato, perché non si può usare la forza pubblica per, come dire, far ingoiare alla povera gente delle misure di questo tipo, privandole appunto di un bene, diciamo, di prima necessità come quello del riscaldamento in pieno inverno, e poi le stesse persone, perché poi alla fine è la stessa polizia che viene oggi usata per contrastare militarmente la camorra. Ecco, io penso che questi comportamenti schizofrenici debbano finire, perché a Scampia non ci sono le persone buone e le persone cattive, perché il dilemma tra camorra e anticamorra molto spesso passa all'interno della coscienza delle persone singole, perché come ci sono alcuni esempi anche all'interno del documentario, ci sono padri di famiglia che non hanno mai lavorato, che hanno 4-5 figli che non possono andare a scuola, non possono mangiare, non hanno una casa, non hanno come riscaldarsi. Ora, un padre di famiglia in queste condizioni a volte non ha altra alternativa che quella di consegnarsi, di fare piccoli lavoretti per la camorra. Mm-hmm. Ora, io penso che è sbagliato distinguere tra chi è a favore e chi contro. Io penso che la stragrande maggioranza sia contro la camorra e voglia fare di tutto per non alimentare questo circolo vizioso di morte. Il problema è che quando un padre di famiglia non ha altre alternative, certo, vede che lo Stato, certo, assente, che non gli dà nulla, allora a questo punto purtroppo sono centinaia di famiglie che piano piano scivolano, certo, all'interno della, certo, camorra. Penso che questo sia un discorso chiaro da fare e spero che questo documentario contribuisca a questo dibattito. Sei stato chiarissimo, Michelangelo. Senti, per avere informazioni sul tuo documentario? Ma allora, innanzitutto il sito Figli del Bronx, poi il sito di Mimmo Morabito che è dell'ufficio stampa. Abbiamo poi aperto un gruppo Facebook proprio con il titolo del documentario, L'uomo con il megafono, e quindi tramite questo ci si può tenere aggiornati rispetto alle prossime proiezioni e distribuzioni. Bene, allora un abbraccio, a risentirci presto, Michelangelo. A voi, a presto. Ciao ciao. Michelangelo Severgnini, regista del documentario L'uomo con il megafono. Dovremmo avere un ultimo collegamento. Oh, terzo e ultimo lavoro rispetto alla tripletta su Scampia è quello di Sergio Panariello, regista del cortometraggio Ciro, anche questo presentato all'interno del Festival del Film di Roma. Sergio, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie, ciao. Allora, chi è Ciro? Chi è Ciro? Ciro è uno dei tanti ragazzi di Scampia, però... e seguiamo la sua storia in un momento importante della sua formazione all'interno del quartiere. Logicamente è uno dei tanti ragazzi di Scampia, ma secondo me non è solo uno dei tanti ragazzi di Scampia, ma di potrebbe essere dovunque questo Ciro, perché in realtà in quel quartiere affronta questa fase della sua formazione in un contesto estremizzato, però in realtà sono le difficoltà che va a affrontare, sono quelle che possiamo trovare anche in altri luoghi. Senti, come nasce tutto il progetto rispetto a questo tuo lavoro? Il progetto è nato da un laboratorio di scrittura che è stato tenuto con i ragazzi del laboratorio Mammut, proprio di Scampia, tenuto da una sceneggiatrice, Anna Polluccino. Quindi la storia è stata scritta proprio da ragazzi. Questa è stata la cosa proprio più interessante che ho trovato, cioè raccontare questa storia dal loro punto di vista. E mi è interessato raccontarla proprio perché era quello di cui loro volevano parlare, perché altrimenti forse se avessi letto questa sceneggiatura in un altro modo, se mi fosse arrivato da un altro canale, avrei pensato, forse stiamo parlando della solita storia, il solito modo di raccontare questo quartiere. Invece c'era uno sguardo in questa storia che voleva andare più proprio sul vissuto, certo, di questo ragazzo, quindi anche l'occhio che ho cercato di dire io era proprio sul ragazzino, su quello che lui stava provando all'interno di tutte le cose che gli succedeva. Ecco, proprio rispetto a questo, Sergio, questa storia rappresenta un po' un esempio il bivio di fronte al quale si trova, rappresenta un po' la storia di tutta una comunità. Sì, esatto, proprio questo. A me poi il suo senso è proprio quello del poter offrire a tutta una comunità, quindi a tutti, insomma, dei punti di riferimento, delle possibilità. A volte, appunto, la carenza, si pensa spesso che sembra quasi banale dirlo, ma alla repressione, ma a pensare invece a delle politiche sociali adeguate, quindi proprio a creare dei punti di riferimento. Una volta si trova perso in questi quartieri che vengono abbandonati. Ecco, già parlandone con Gaetano e poi con Michelangelo, l'idea che esce fuori è che invece di affrontare il problema della criminalità organizzata con la repressione, il grosso scoglio è quello di offrire alternative che sono praticabili e che la gente avrebbe voglia e intenzione e le energie per mettercisi dentro. Assolutamente, poi se pensiamo che ci sono tutta una serie di servizi come quelli del tutoraggio, le case famiglia, che adesso in questo momento sono 3 anni che hanno difficoltà, stanno aspettando fondi, quindi hanno dovuto anche interrompere dei servizi, questo mi sembra una cosa abbastanza grave, infatti sono tutti gli operatori sociali che hanno difficoltà a portare avanti il loro lavoro, con un lavoro che avrebbe bisogno di continuità, perché altrimenti mancare proprio quel punto di riferimento per i ragazzi, quindi per i giovani che devono avere, proprio sono loro che devono essere guidati, certo, per trovare una strada. Che esperienza è stata lavorare, incontrare e poi lavorare con questi ragazzi, Sergio? È stata un'esperienza bellissima e complicata allo stesso tempo. Da un lato ho avuto uno dei ragazzi, quello che proprio mi ha tirato all'interno del progetto, che è Davide Zazzaro, lui che aveva scritto la sceneggiatura, aveva preso parte a questo laboratorio, e lui era uno di questi ragazzi che in realtà all'inizio quasi non voleva il centro, il Mammut lì a Scampia. Invece attraverso le loro attività si è cominciato ad avvicinare ed è diventato invece proprio uno dei più forti promotori della realizzazione di questo progetto, quindi questa è stata proprio una grande conquista. E lavorando al corto è stato bello il fatto che abbia capito anche l'importanza di tutto quello che c'è dietro, perché magari la prima cosa che arrivava rispetto all'idea di cinema, del film, è l'idea di apparire, no? di essere l'attore all'interno, l'idea che chissà che cosa può portare di guadagni e cose. Invece lui ha visto l'importanza anche, ha avuto un ruolo anche, ha fatto anche una parte all'interno del corto, ma ha capito quanto è stato importante proprio il suo ruolo organizzativo, e quindi stare dietro alla macchina da presa, quindi anche essendo meno visibile invece che contributo puoi dare alla cosa. La stessa cosa con Enzo, che è il protagonista, il Said Beshiro. Con lui ci sono stati dei momenti appunto di scontro, anche dove lui, perché era la gente, un ragazzo di 14 anni con tutti i suoi problemi di questo momento dell'adolescenza. Mm-hmm. Però mi ha donato tantissimi, cioè, scontri, però mi ha donato anche tanto al corto. Sergio, immagino che come per gli altri due casi di cui abbiamo parlato, tutte le informazioni si possono trovare sia sul sito dei Figli del Bronx che di Mimmo Morabito. Sì, esatto. E poi proprio di Ciro domani c'è una proiezione, domani sera all'Auditorium di Scampia alle 7 di sera. Benissimo. Sergio, allora, a risentirci presto. A presto, grazie. Un abbraccio, ciao, grazie. Un abbraccio, ciao. Sergio Panariello, regista del cortometraggio Ciro, e con questo finiamo per oggi. L'appuntamento è giovedì prossimo dalle 14 alle 15 con Visionari. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e anche su Facebook c'è la pagina Visionari.